636. Pane di sabbia. Anche il pane di sabbia è un dolce tedesco, così chiamato perché si sfarina in bocca come la sabbia, e però si usa servirlo col tè che lo rende più piacevole al gusto. Non vi spaventate nel sentire che per manipolarlo occorrono 2 ore di lavorazione non interrotta e in luogo riparato da correnti d'aria, girando il mestolo sempre per un verso. Le signore che sono di natura pazienti e quelle particolarmente che si dilettano di improvvisare dolci non si sgomenteranno per questo se si procurano l'aiuto di 2 braccia robuste. Burro fresco, grammi 185. Zucchero a velo, grammi 185. Farina di riso, grammi 125. Farina d'amido, grammi 125. Farina di patate, grammi 60. Uova numero 4. L'agro di 1/4 di limone. Cognac, 1 cucchiaiata. Bicarbonato di soda, 1 cucchiaino. Odore di vaniglia. La farina d'amido non è altro che l'amido comune di buona qualità ridotto in polvere fine. Lavorate prima il burro da solo, poi aggiungete i rossi ad uno, girando il mestolo sempre per un verso. Indi versate lo zucchero, poi il cognac e l'agro di limone, dopo le farine e per ultimo il bicarbonato di soda e le chiare montate, ma di quest'ultime versatene prima 2 cucchiaiate per ammorbidire il composto e mescolate adagio il restante. Versate il composto in una teglia proporzionata, unta col burro e spolverizzata di zucchero a velo e farina, e cuocetelo in forno nel forno da campagna a moderato calore. 1 ora di cottura potrà bastare.